X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. 36 miliardi di manovra, non si aumentano le tasse, si riduce la pressione fiscale di 18 miliardi di euro. Io credo che siamo davvero in presenza di una profonda novità nella finanza pubblica italiana. Una manovra che cerca di espandere e di essere anticiclica in un momento di difficoltà quale quello che conosciamo, e che lo fa rispettando i limiti europei. Noi rispettiamo il limite del deficit del 3% e noi pensiamo che per l'Italia valgano quella duplice caratteristica delle circostanze eccezionali e delle riforme strutturali che costituiscono lo strumento per non rispettare gli impegni sul pareggio di bilancio come previsti dal Fiscal Compact. Professor Marco Fortis, buongiorno, vicepresidente della Fondazione Edison, ma soprattutto consigliere economico a Palazzo Chigi. Questa manovra da 36 miliardi con 15 di deficit, malgrado le parole di Renzi, le abbiamo sentite, è l'inizio della guerra tra Renzi e l'Europa? Ma bisogna vedere ovviamente che cosa succederà nelle prossime settimane, anche per via del fatto che siamo in una fase di passaggio tra la vecchia commissione e la nuova. Vi aspettate, quello nuovo. Vi aspettate delle cose da quello nuovo? Ma diciamo che quello nuovo si è insediato ponendo, diciamo, tra i punti forti del suo nuovo mandato i 300 miliardi, il rilancio della crescita, la lotta alla disoccupazione. Ecco, però naturalmente quei 15 miliardi di deficit sono una sfida obiettiva per l'Europa. Bisogna anche vedere diciamo due aspetti. Sì. Uno, il primo è che il tetto di Maastricht del 3% viene comunque rispettato. Il secondo è che il cosiddetto avvicinamento al pareggio di bilancio strutturale è un'operazione abbastanza ardita anche dal punto di vista aritmetico-matematico, perché è calcolato con dei parametri che non sono facilmente riconducibili, certo, alla realtà. Esatto. Cioè, cosa intendo? Che intendo dire che il cosiddetto pareggio di bilancio strutturale è tutto rapportato, adesso per non complicare dal punto di vista tecnico le cose, alla, diciamo, alla tendenza del PIL in termini strutturali, quindi c'è un tentativo di costruire da parte degli economisti, degli statistici della Commissione, una tendenza complicata, diciamo, per molto capirci. Complicata, ecco. Molto complicata. Ecco, professore, ma l'ingrediente principale, però, da osservatore di questa manovra, più che i numeri, sembra essere Renzi con la sua politica e la sua idea di primato della politica, è così? Sicuramente la manovra pone un problema di primato della politica che dovrebbe essere recuperato anzitutto anche a Bruxelles, perché la cosiddetta impostazione di questi ultimi anni eurocratica, diciamo, eurocratica sta mostrando falle da tutte le parti. Non solo è criticata dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, è criticata da grandi economisti, premi Nobel, ma in qualche misura lo stesso Draghi, nel suo discorso in America negli ultimi tempi, ha posto il problema del rilancio dell'occupazione, della crescita come elementi, certo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. E quindi, professor Fortis, possiamo immaginare, come abbiamo provato a dire prima, che quei 15 miliardi che ci servono per coprire il deficit potrebbero stare dentro quei 300 che aspettiamo? Beh, sono due cose in realtà diverse, perché i 300 miliardi sono la filosofia del rilancio degli investimenti in Europa che Juncker appunto ha posto come obiettivo. Invece la posizione italiana si richiama a due fattori principali. Uno, le caratteristiche eccezionali di questo ciclo, che è molto più negativo di quanto non dicano appunto i numeri della Commissione sulla tendenza strutturale del PIL. Cioè, il ciclo è molto negativo, l'Italia è di fatto in recessione da 3 anni. Da 3 anni, esatto. E questo è un fatto di cui bisogna tenere conto. L'altro aspetto molto importante è che se un paese contemporaneamente ha un ciclo così difficile e si impegna a fare riforme strutturali, la Commissione dovrebbe deve tenerne conto. Ecco, e lei pensa che in Europa appunto sarà accettata la manovra? Io credo che le riforme strutturali che sono state messe sul piatto e anche alcune indicazioni contenute nella legge di stabilità che vanno proprio nella direzione chiesta dalla Commissione europea quando fa i suoi rimarchi annuali sugli squilibri macroeconomici dei paesi. Mi riferisco per esempio alla riduzione delle tasse sul lavoro, e queste cose sono state esplicitamente chieste come obiettivi della Commissione. L'Italia, un po' con le riforme extra legge di stabilità, un po' con quello che si sta ci sta provando. Sta provandoci, ecco. E tenuto conto altresì del ciclo negativo, ha buone carte per poter far valere le sue ragioni. Ecco, ma bisogna comunque preoccuparsi molto di quello che sarà il giudizio di Bruxelles, oppure fare come la Francia a un certo punto, dice vabbè, speriamo che giudichino bene, però poi noi marciamo sulla nostra strada. Ma direi che l'Italia ha dei numeri così importanti dalla sua parte, tra questi il bilancio primario, cioè il bilancio dello Stato prima del pagamento degli interessi, che è il migliore non solo a livello della UE 28 ma anche in rapporto a Stati Uniti-Giappone, e in termini assoluti il bilancio primario italiano è secondo in moneta soltanto quella della Germania al sì, mondo. Quindi dice le carte in mano. Ecco, professor Fortis, il professor Giuseppe Guarino quasi da solo per mesi ha sostenuto che il fiscal compact sostanzialmente è stato un golpe. Senta qui cosa ci ha detto. La disciplina è approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, professore, questi due poteri sono stati eliminati. Una cosa importante è che sono stati sostituiti da due doveri. Il primo dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Il pareggio di bilancio, che è invocato adesso dall'Europa a guida tedesca e impedisce le politiche di sviluppo, lei lo ha detto, non è contemplato dai trattati. Chi l'ha inventato? Questo è il grande mistero. Noi possiamo dire quali erano gli organi che l'hanno adottato. Cioè i burocrati di Bruxelles, per dirla in un modo che si capisca. Probabilmente la invenzione è dovuta uno degli uffici della Commissione, quindi non abbiamo verbali, non siamo in grado di costruire. Cioè, è una cosa veramente un po' misteriosa. Beh, è curioso questo che dice Guarino, professore, no? Ma diciamo che, badando a parte le ricostruzioni storiche al sodo, che hanno il loro peso, però se guardiamo al sodo, sì. Il vero punto debole di questo fiscal compact è che è un po' come se una squadra di calcio entra in campo per fare una partita in difesa e non schiera neanche un attaccante, no? Poi va sotto 1-0, 2-0, a questo punto o mette degli attaccanti, quindi o punta sulla crescita o punta sul PIL, altrimenti non rimonta più, anzi rischia di perdere la partita. Quindi l'errore di questo fiscal compact è di immaginare che esso sia immutabile, come se fosse stato calato da una divinità. No, soprattutto appunto non è calato da nessuna divinità, questo è un altro punto che Guarino sottolinea con precisione. Sì, ma comunque ecco, è considerato quasi come se fosse, insomma, non è un totem, ecco, e non tiene conto dei cambiamenti della realtà circostante. Esatto. Siamo in una recessione incredibile, c'è la deflazione alle porte, la disoccupazione ai massimi storici e soprattutto il rapporto debito-PIL, che dovrebbe calare secondo il fiscal compact attraverso questo tipo di politiche orientate fortemente al rigore, non cala affatto, perché appunto, se il PIL non cresce no, il debito continua ad aumentare, non si va da nessuna parte. Intanto, professor Fortis, la Grecia trema di nuovo e mi sembra un'altra misura del fallimento delle politiche di austerità, no? Insomma, le troiche, forse l'epoca delle troiche è finita. Ma diciamo che il problema della Grecia è abbastanza peculiare, perché purtroppo il paese attraversa anche una situazione politica interna molto complicata e il tentativo di divincolarsi prima dagli obiettivi di uscita dalla crisi concordati con l'Europa, con la Troica, col Fondo Monetario, appaiono forse un attimino azzardati in questo momento. I mercati hanno reagito subito pesantemente, perché la situazione effettivamente delle banche greche non è delle migliori. Ecco, professor Fortis, la sfida comunque è all'Europa, l'abbiamo detto, però è anche agli imprenditori. Renzi dice non hanno più alibi, devono investire, devono assumere, dopo i tagli all'IRAP, l'articolo 18, le facilitazioni per le assunzioni. È così? Beh, diciamo che qui si può approfittare di un momento che, sia pure nelle persistenti difficoltà, comincia a presentare scenari un po' più positivi rispetto anche solo un anno fa. Se noi guardassimo più attentamente anche alle cifre sull'occupazione, ci accorgeremmo che già nel secondo trimestre di quest'anno è successa una cosa molto importante rispetto al 2013, e cioè che vi è stata di fatto una situazione di miglioramento già importante dell'occupazione nell'industria. Cioè, è iniziato un processo che ha invertito il trend, questo sta dicendo. E quindi se adesso si inseriscono queste nuove iniziative che agevolano ovviamente il reclutamento di persone, l'aumento dei posti di lavoro, questo può essere molto importante per accelerare l'uscita dalla crisi in maniera sostanziale, non così debole come è avvenuto finora. Professore, c'è Mario Secchi che vuole fare una domanda. Buongiorno professore. Buongiorno. Dunque, per ora abbiamo visto solo le slide sostanzialmente della legge di stabilità, però ci sono insomma 15 miliardi di risparmi da spending review, sì, di cui 4 delle regioni, e si dice senza toccare la sanità. 6 delle regioni. È possibile? Ma diciamo che la sfida importante è proprio avere posto degli obiettivi strategici da conseguire, che sorreggono l'intera manovra, a cui diventa anche un po' difficile sottrarsi, cioè le parti devono tutte fare. E quindi fare le regioni e i comuni devono fare la loro parte. Tutti diciamo devono fare la loro parte. Se non si capisce questo concetto sostanziale, non si riesce nemmeno a trovare la benzina per poter ripartire. Ecco professore, un'ultima domanda. Renzi dice che la sua manovra è una manovra di sinistra, però è applaudita da Confindustria, contestata dalla CGIL. È il mondo che cambia oppure cosa? Ma io adesso non starei più a coniare definizioni di questo tipo. No, l'ha detto lui, non io. Dico che non mi soffermerei tanto su questo punto quanto sul fatto che se guardiamo all'aspetto delle uscite e agli impegni quindi che si prefigge per spingere la crescita, questa manovra noi vediamo che sono abbastanza articolati su tutti i fronti, perché da una parte si stabilizza il bonus degli 80 euro che man mano che si va a accumulare anche sotto forma di risparmi permette una qualche forma certo di spesa. E certamente... professore, abbiamo Davide da Caserta, un radioascoltatore. Davide? Sì, rapidamente, Davide, grazie, buongiorno. Buongiorno, io sono un piccolo imprenditore del sud, ho 14 divententi. La manovra mi sembra andare nel verso giusto, mi dà la possibilità di inserire altri dipendenti. Assumere qualcuno, insomma. Assumere qualcuno. Poi sul TFR, da 2 anni io già do il TFR ai miei dipendenti, e quindi fa sì che mi dà la possibilità di gestirlo. Un debito che avrò nel lungo tempo, ritarlo subito. Va bene, una buona notizia, una buona testimonianza, professore, per chiudere, mi sembra, no? Sì, perché una delle vere sfide dei prossimi 12 mesi è proprio quella del Sud. Anche qui ritorno sui dati dell'occupazione del secondo trimestre 2014. Comparati con il secondo trimestre 2013 ci mostrano il Sud che ha perso ancora 90.000 posti di lavoro, mentre il nord e il centro ne hanno creati 76.000. Questo vuol dire che è lì che si gioca gran parte la della partita svolta. Esatto, bene professore, ci risentiremo sicuramente, la ringrazio molto. Buongiorno professore, buongiorno, buon lavoro. È come se fosse passato uno tsunami, 200 mm di pioggia in 3 ore, un disastro di fango. La furia delle acque trascina via ogni cosa, macchine, cassonetti della spazzatura, un divano. Prima al tempo, le anziane travolte dalla piena di un fosso in Maremma. Di nuovo no. Di nuovo via tutto, porta tutto. Una nuova vittima del maltempo, questa volta in Friuli, una donna è rimasta sepolta sotto una frana. Oddio, va via, esci di lì! Mia figlia, se non la tirano via, muore nel bar! Lui, se non lo tirano su in casa, muore in pizzeria! Solo questi ragazzi abbiamo visto e basta! Per avere risarcimenti dobbiamo lavorare dei mesi per riempire dei moduli, così che vengano una volta, facciano la perizia e che diano i soldi, perché poi prendono i prossimi 100 anni di tasse da qui dentro! Non l'hanno ancora capita che si sveglino! Mentre sale la rabbia dei cittadini sommersi dall'acqua per l'ennesima volta, il sindaco di Genova, Doria, dichiara: anche se avessimo avuto previsioni corrette, con questa situazione di dissesto idrogeologico non saremmo stati in grado di evitarla, perché non sono stati fatti degli interventi strutturali che attendono di essere realizzati da anni e anni e che il comune da solo non fa. Gli fa eco Pizzarotti, sindaco di Parma. Sicuramente si può dire che saranno più i danni tra privati e pubblici che la creazione della cassa d'espansione, e quindi questo ci dirà ancora una volta che era meglio prevenire che non curare. Ecco Mario Tozzi, geologo, ricercatore del CNR, notissimo al pubblico per i suoi programmi televisivi. Ecco, ci ritroviamo ancora una volta a fare la conta dei morti, dei miliardi di danni per alluvioni, 3,5 miliardi spesi per risarcimento dal 45 oggi. Ma siamo tutti in pericolo, Mario Tozzi, buongiorno intanto. Buongiorno, in Italia siamo abbastanza in pericolo, nel senso che il rischio naturale nel nostro paese è molto elevato, però vedo da quello che avete fatto risentire in sintesi che al di là della pietà per chi ha perso tutto, certo, addirittura ha perso le vite, ed ancora non si è capito che questo è un paese così, esattamente, il punto è questo, insomma, un fiume in Italia da elemento essenziale di vita per una comunità si trasforma ogni volta a ottobre più o meno in una rovina per le persone, ed è sempre la stessa storia. È così per una ragione che è naturale, nel senso che il nostro paese è fatto così geologicamente giovane, e l'altra ragione è che le piogge sono cambiate negli ultimi 20 anni, sono più concentrate, in poco tempo cade la pioggia che prima cadeva in mesi, ma l'altro, tutto il resto dipende da noi. È rimasto tutto uguale, mentre è cambiato tutto è rimasto uguale, nel senso che magari i soldi sono stanziati ma non vengono spesi. Ecco, nel caso di Genova abbiamo visto, dove l'opera era necessaria e indispensabile, adesso si spenderanno 350 milioni nell'immediato dell'emergenza, spendendone forse poco meno di 200 avresti risolto quel problema lì, che è un problema anche tecnico. Appunto. Nel senso che lì si poteva fare qualcosa. Ecco, quando facevo Mixer, praticamente tutti gli anni a settembre noi preparavamo la puntata a ottobre o novembre per le alluvioni, perché intanto sapevamo che sarebbe stata una puntata sicura. Ma ci spiega perché ogni anno ottobre l'Italia va sott'acqua? Beh, questo dipende in parte dalle condizioni meteorologiche, che portano da noi grande quantità di pioggia in questo periodo, e abbiamo visto negli ultimi 20 anni esageratamente cospicue nell'unità di tempo, cioè molto concentrate. L'altra cosa dipende dal fatto che in questo paese negli ultimi 20 anni o 30 si è costruito troppo, si è costruito dove non si doveva. Troppo e male. E si è costruito in zone pericolose. Anzi, si può dire che in questo paese il rischio spesso lo abbiamo creato noi, non c'era prima, l'abbiamo creato noi esponendo beni e persone in posti che, sa, per le alluvioni e le frane, non è che se costruisci bene la casa regge e la vita la salvi, questo vale per il terremoto. Lì no, se no, sei in un certo posto sbagliato non c'è niente da fare. Ecco, lei è geologo, ricercatore del CNR, se fosse lei a comandare, che cosa farebbe? Prima cosa penserei a quello che deve succedere da qui nel futuro, cioè in questo paese non costruisci più nemmeno un metro quadro da nessuna parte, una legge sul consumo del suolo che funzioni, perché almeno mi garantisco che nel prossimo futuro non abbiamo altre situazioni di rischio. Poi devo, purtroppo va detto, ma costa meno in vite umane e addirittura economicamente, in qualche caso delocalizzare. Nei casi invece come Genova, e naturalmente le città lì non le puoi spostare, lì sono le opere che contano. Dunque prima cosa che farei è spendere quei denari, 1,5 miliardi che conosciamo, che non sono stati spesi negli ultimi anni, che sono pure disponibili. Ecco Tozzi, oggi sul Tempo di Roma, quotidiano di Roma, c'è un reportage che mette in luce una cosa abbastanza drammatica. Dice che a Roma ci sono 350 siti a rischio di frane. Ecco, quali sono le zone più a rischio a Roma? Perché viene giù anche Roma, siamo arrivati. Sì, lì lo scrivo anche io nell'editoriale di spalla, effettivamente proprio sul Tempo, che sono soprattutto la zona di del nord della città, Monte Mario in particolare, e la zona della Cassia. Sono le zone che non a caso i romani antichi non abitavano, perché sono colline fatte di sabbia e di argilla che facilmente franano, mentre i sette colli sono più robusti essendo fatti di tufo, dunque c'era una ragione specifica per cui non si andava ad abitare lì. Quelle sono le zone pericolose, possono innescarsi movimenti franosi soprattutto con queste piogge concentrate, è questo che al momento li scatena, ma poi siamo noi che abbiamo costruito dove non si doveva. Ma adesso cosa bisogna fare in queste zone a rischio? 350 siti sono tanti. Sono molti, la prima cosa che si può fare, che si deve fare, è pensare alla sicurezza, dunque l'allarme quando c'è l'allerta deve essere immediato e passare immediatamente ai cittadini senza incomprensioni. Purtroppo gli amministratori si aspettano che sull'allerta meteo ci sia il teschio con le tibie, non c'è quello, è scritto in un altro linguaggio, dunque devono imparare a interpretarlo. E poi la seconda cosa, per salvare quelle vite non bisogna aver paura di prendere provvedimenti impopolari nell'emergenza, come quello di chiudere alcune strade. Io ero a New York durante l'arrivo dell'uragano Sandy, sì. In strada non c'era nessuno, ma neanche le auto. Dunque passa senza provocare problemi, e seppure una volta non sarà il danno che ti aspetti, vorrà dire che ti sei allertato per minore gravità, ma va bene lo stesso, cioè bisogna avere il coraggio di dire che non si può scendere in strada, altrimenti la gente ci rimane. Ecco, Pietro ci scrive, nel basso corso l'Adige lo può attraversare a piedi perché da anni non se ne pulisce l'alveo, il letto del fiume risulta più alto della campagna circostante e quindi degli argini, Pietro. Però questa è una cosa che si sente dire spesso, allora un conto è ripulire l'alveo dai rifiuti, spesso sono rifiuti nostri, spesse volte sono tronchi di alberi morti eccetera, quello va sempre fatto. Altra cosa è sotto escavare un fiume nel greto per ripulirlo, il fiume non è un elemento, non è un canale artificiale, dove deposita da un'altra parte eroderà, dunque è tutto il letto che deve essere considerato. Il problema è che l'Adige ha avuto un letto ristretto di quasi il 50% negli ultimi 50 anni. Ecco, Luca ci chiede, Luca da Verona ci chiede, potete chiedere all'ospite se è possibile indurre temporali con la mano dell'uomo? Solo limitatamente, seminando una sostanza chimica che è lo ioduro d'argento, si può indurre una precipitazione però limitata, non è possibile creare queste cosiddette bombe d'acqua, quello senz'altro no, se quella è il timore. Senta, anche a Modena, sul Secchia, non si è fatta la cassa di espansione, non si fa nemmeno manutenzione ai fiumi. E allora, questa manutenzione ai fiumi, chi la deve fare? Allora, le autorità di bacino sono quelle che consigliano come muoversi, poi ci sono gli uffici tecnici dei vari comuni che devono partecipare, poi c'è la regione con le sue agenzie anche geologiche. Le casse di espansione, cioè i posti dove il fiume si può espandere liberamente senza fare danno, prima dei centri abitati, a monte dei centri abitati, da mo' che andrebbero fatte, se mi si consente il romanesco, perché certo. Sul Seveso, per esempio, che hai sondato 4 volte negli ultimi 7 mesi, ci si arriverà adesso. Sull'Arno, che se piovesse oggi come nel 1966 farebbe il doppio dei danni e dei morti, ancora non si fanno, è un progetto di Leonardo da Vinci quello. Senta, un'ultimissima cosa, Tozzi, a luglio è stata presentata l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico e dovrebbe coordinare tutte le realtà che operano in questo campo. Ne ha sentito parlare? Parole, siamo di nuovo al coordinamento del coordinamento? No, ne ho sentito parlare e per ora mi sembra che sia partita bene, tant'è che in qualche misura l'ho anche appoggiata, perché proprio attraverso questa unità di missione possono ripartire quei denari già impegnati e mai spesi, con un controllo popolare sul sito, perché tu puoi andare sul sito del cantiere e vedere quando cominciano i lavori, quando finiscono, quanti soldi sono impegnati e a che cosa servono. Da luglio, momento di istituzione dell'unità di missione, a oggi sono ripartiti 240, un po' pochi su 3.390, però, ma almeno intanto un inizio. Va bene, con questa buona notizia, pubblicità. Mix 24. Come va? Sì? Bene? Mi sento bene? Oh, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, quindi miglioro a vista d'occhio. Bene, sto da Dio. Bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto... Dottore! Mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come una suola in mezzo al bosco. A Bologna? A Genova? Hai visto? Ci sono 3 Beppe Grillo. C'è il cantante, c'è il comico e il politico. E oggi ti ho voluto offrire proprio il migliore dei Beppe Grillo, il cantante, qui in coppia con Mila in Dottore. A fare il punto della situazione per poi ricominciare. Se nel frattempo fosse così gentile da darmi con una certa velocità un ansiolitico, un antibiotico, omeopatico, quello che c'è. Davvero particolare, questo Grillo cantante con Mina, molto molto interessante. Nella pentola di Mario, che cosa bolle? Senti. Un po' di Russia con amore. Non c'è James Bond. Tutti i giorni non c'è James Bond, ma c'è Matteuccio nostro. il caro leader, non guardarmi così buttafuoco, c'è Petro Poroshenko e c'è lui, Vladimir Putin. Vabbè, insomma, oggi è una giornata importante per la politica estera e per l'Italia, perché a Milano si incontrano Putin, Merkel e Poroshenko e devono discutere di una cosa vitale per l'Ucraina, e cioè il gas. C'è una bolletta da qualche miliardo di dollari insoluta, bisogna pagarla. Kiev deve dei soldi a Mosca. E non poi c'è l'ipotesi ancora di cambiare il percorso, no? L'altro sì, stream. Sì, sì, sì. E la politica del tubo. La politica del tubo. In questo caso. Si può dire. Però insomma, è una partita interessante. Secondo me oggi vale la pena seguirla. Poi c'è il vertice ASEM. Insomma, è molto buono. Giornata internazionale. Allora, Lollipop è il nuovo, la nuova versione di Android, che è il sistema operativo di Google, che sarà rilasciata tra qualche settimana. Promette faville, è tutta orientata agli utenti che abbandoneranno in qualche maniera la televisione, queste sono le, diciamo, le previsioni, o comunque la guarderanno insieme ad altri cosiddetti device. È interessante perché secondo me è l'evoluzione del consumo dell'informazione e dell'entertainment ulteriore. Infatti. Tutto quello che fa Google va guardato con estrema cura, certo, perché anticipa quello che saranno poi gli stili e i consumi di tutti nel mondo. Beh, noi siamo solo, subiamo tutto questo. Sì, lo subiamo perché saremo solo consumatori, perché non inventiamo, non protagonisti, non inventiamo. Segnalo anche sul tema, Giovanni, che Time Warner ha deciso di vendere il proprio canale HBO, quello che fa le serie più importanti, molto bello, no? Solo online anche, e non solo via cavo, certo, per raggiungere 80 milioni di utenti che non hanno il cavo. È la famosa guerra con Netflix. Quant'è lontana l'Italia, infatti, da tutto questo. Siamo proprio. E allora andiamo su un bel salamino. Salamini, è veramente la nazione più bella al mondo, l'Italia, e il caro leader, per sua definizione, dice di sé di essere il capo della nazione, anzi no, lui direbbe il paese, perché usa questa locuzione oscena. È il capo quindi del paese più bello al mondo, e non può essere che tale, perché grazie a Matteo Renzi diventa sempre più grande e più bella che prima l'Italia, e lui stesso. E solo i gufi possono pensare che in Italia ci sia la crisi. Un'imprenditrice si è tagliata la gola ed è l'ultima di una catena di morti che non farà mai notizia, perché, caro Mario, in quelle slide non viene raccontato di tutti questi kamikaze, e quelli che appunto se ne vanno sul fronte dell'impresa. Ma il capo della nazione più bella al mondo ha sentito ieri paese, ti correggo, paese. Usano questa paese, locuzione piritollissima, non dire paese, mai nazione, patria, nazione mai, non esiste, mai, patria men che meno. Esiste il paese? La nazione, ma non si può dire. Oh, nelle mani di Berlusconi e Luxuria sarà un village. Allora, il village, tutto va verso la deriva Piritolla, e ieri Piritolli Huber Alles, il caro leader, ha incontrata come si dice, Winfrey? Sì, Winfrey. Winfrey. Che sarebbe la Lucia Annunziata degli Stati Uniti. Magari piacerebbe la Lucia Annunziata. Insomma, le donne più ricche d'America. Ma insomma. E vabbè, perché li pagano bene in Italia. In Italia, dove non c'è la crisi, non paga nessuno. Insomma, hanno preso il caffè, hanno parlato della Silicon Valley, si dice così? Silicon Valley. Dove il caro leader è stato acclamato, insomma, sì. È sempre più un'Italia da festeggiare, da salutare, con il motto troppo very well. Troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo very well, troppo veramente troppo. Che era questo? Non mi ricordo mai. È troppo very well. Non ti ricordi neanche tu. E Francesco Giunta, anzi Ciccio Giunta. Quota rosa. I wanna be a real full woman. mazza o di musica. Yeah, and live. Like a real full woman every day. And I wanna make love like a real full woman. Questa è una canzone del nuovo album I'm Not Bossy, I'm the Boss di Sinéad O'Connor, che tradotto vuol dire non sono, come dire, arrogante, no, comandina, sono semplicemente il capo. E quindi la volevo dedicare a tutte le donne di potere, come per esempio Oprah Winfrey, che non è solo ricca ma ha tanto potere, che però cercano di non rinunciare all'amore. Sì, buonanotte. Buonanotte. Però siccome noi donne oggi ci paghiamo pure le tasse con questa storia della parità, vi ricordo che oggi scade la TASI. La TASI è la tassa comunale sui servizi indivisibili, come le strade o i lampioni. Insomma, quei servizi che quando esci di casa la mattina dici paga e TASI, che è meglio. È un'etrina la TASI, pensata da una mente da serial killer, ha eliminato le sue sorelle, Imu e Tarsi. E poi scontenta tutti e non fa torti a nessuno. La paga il proprietario senza affittuario, la paga il proprietario, ma anche un po' l'affittuario, la paga il figlio, lo zio, non la paga la moglie, ma la paga l'ex moglie. E quindi un consiglio, paga e TASI, zitto e paga. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms, canzoniere Pietrangelo. Mi tiene il muso, parla mica più di me nelle sue rubriche. Una volta io ero il grande questo, l'incomparabile quello. Adesso, appena una piccola parola occasionale più che sprezzante. So da dove viene questo, che ci si è beccati duro. 800 24 0024, numero verde, per chi indovinasse. SMS 349 238 6666, viabilità. Mix 24. Mario, c'è ancora una bolla dall'archivio. Questo è un pezzo fantastico degli OMD, che è l'Orchestral Manoeuvres in the Dark. Sì. Che era il nome dell'aereo che sganciò sul Giappone, la bomba atomica. Tutti. E di nucleari vi volevo parlare, perché sono uscite le memorie di Panetta, l'ex capo della CIA. E insomma, sto tipetto racconta che quei bravi ragazzi del Pentagono avevano un piano per sganciare un ordigno nucleare sulla Corea del Nord nel caso avessero invaso la zona demilitarizzata. Puoi immaginare come è stata presa la rivelazione. Ora, diciamo che non l'hanno sganciata comunque. Per fortuna non si fanno queste cose in un'epoca in cui le armi nucleari ce le hanno un Mario, sacco di persone. Ho visto anche questa storia di Saddam Hussein, delle armi, sì. Sembra che ci fossero. No, c'erano, certo che c'erano. No, perché... allora, chiariamo, l'arsenale nucleare, chimico. Di Saddam esisteva, poi fu smantellato, ce n'erano dei resti, tant'è che il New York Times poi ha rivelato che ci sono stati anche degli incidenti in una sua inchiesta. E a Saddam glielo diedero gli americani, se non ricordo male. Sì. Le armi chimiche le facevano un po' tutti, gli americani. Mettendolo tra virgolette, servivano, chi gliele ha date a Saddam? Chi gliele ha date? Mettiamolo tra virgolette. I francesi, guarda, fra virgolette, sì. I francesi. Ah, ora si chiamano francesi. Sì. Salamino. Sua eccellenza Nicolas Diomalola, presidente della Conferenza Episcopale del Congo, l'ha buttata proprio pesante sul sinodo, ha detto, mettiamo le virgolette, ha detto: nessuna chiesa e nessun vescovo del mondo dice che l'omosessualità sia una cosa buona. Ma poi la butta ancora più pesante. Ciò che preoccupa è che le organizzazioni internazionali condizionino l'aiuto ai paesi poveri ad un atteggiamento, e cioè: se volete gli aiuti dovete accettare l'ideologia gender. E dopodiché si avventura in una discussione che è tutta di sostanza, e cioè che in Africa è centrale il ruolo della coppia formato da uomo e da donna. Chiudendo le virgolette, consentitemi un ruggito personale, un ruggito reazionario. Ruggito. E questo ruggito reazionario io lo vorrei in affidare in musica ad una delle canzoni più belle di Gaber, Un uomo e una donna. Ascoltate queste parole. E poi ci siamo noi, sì, sì. Un uomo e una donna, con tutte le nostre speranze, le nostre paure, che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi chiamiamo amore. Beh, bellissima, eh? Senti, Pietrangelo, non indovinano però, il tuo canzoniere è sempre troppo difficile. Ma non è colto, difficile, colto. Non è vero, è un autore popolarissimo, forse però, qualcuno ha indovinato o no? C'è qualcuno che ha indovinato? Non ha indovinato nessuno. Nessuno. Insomma, io l'aiuto l'ho dato, la Pleiade, è insomma un dannato. Uno tu che devi la... smettere con la letteratura, tu devi mettere Tex, Zagor, il comandante Mark, queste cose qua. Oppure un po' di letteratura piritolla, come dici tu. Li conosci i nuovi autori? Certo, non faccio altro che leggere cose piritolle. Tipo? Chi? Dai, dimmi chi. Tutto il piritollame, tutto. Da Murakami fino ad arrivare a Fabio Volo. Cioè, Fabio Volo soprattutto. Cioè, tutto. Senti, tutto. Mario, una domanda ti devo fare che ci fa un nostro ascoltatore. Sono già in piedi, dimmi. Può assicurarmi che la legge di stabilità 2015 comprende il rifinanziamento della social card istituita dall'ultimo governo Berlusconi e rifinanziata da Monti e Letta? L'abbiamo capito o no questo? No, perché non c'è il testo. Io ho visto le slide. Nelle slide non c'era. No, questo no. Questo no. Allora. Ci sono tante cose interessanti. Purtroppo hanno tagliato i finanziamenti alla banda larga, ma vabbè. Scusa, ma in questi slide è diminuito. In questi slide i posti di lavoro ci sono, sì o no? Che la spiegato, ma perché quando vado al paese sono tutti disoccupati? Gli sgravi contributivi sono una cosa molto importante per chi assume a tempo indeterminato. Se viene confermata, diciamo, nel testo definitivo, poi secondo me questa è una norma che aiuta. Anche la norma sull'IRAP è molto importante, cioè ci sono delle cose buone nella legge di stabilità. Vediamo poi come adesso lo vedremo in concreto. Comunque Fortis ci ha spiegato abbastanza bene e contrariamente a quello che ci racconta un nostro ascoltatore, non era uno spot a Renzi, ma era un tentativo di spiegare che cosa è. Però insomma, se è vissuta così. Io che ho scritto un pezzo stesso a tutte le mischierate di Renzi sul foglio, ma dai. Vogliamo sentire il pezzo che introduce la puntata della storia di oggi? Per la memoria degli ebrei romani è ancora una ferita aperta. Il racconto, il trauma di quei giorni è stato trasmesso per le generazioni. Io sono nato ad esempio nel 49, i miei genitori erano riusciti a scappare prima, ma dico, nella mia famiglia c'erano stati dei deportati e anche una sopravvissuta che ci raccontava, e quindi queste cose si trasmettevano dentro casa, e noi in qualche modo, avendolo raccolto, siamo a nostra volta depositari e trasmettitori. Ecco, era Riccardo Segni, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma. All'alba del 16 ottobre del 43 le SS tedesche invadono le strade del ghetto di Roma e rastrellano più di 1000 persone. È il cosiddetto sabato nero, che raccontiamo con Marina Milone attraverso testimoni sopravvissuti subito dopo il giornale radio e la musica di conclusione. Non importa